pomeriggio a tutte e a tutti. Siete sempre sintonizzati sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come ogni giovedì che si rispetti, alle 16 puntuale inizia un nuovo viaggio musicale di Attica Blues. Nella puntata di oggi ritorniamo ad ascoltarci un po' di sano jazz con una puntata dedicata ai grandi incontri. La settimana scorsa ci siamo focalizzati sugli album di debutto dei grandi artisti africani e abbiamo concluso con il pianista sudafricano Dollar Brand, ed è proprio con lui che riapriamo anche questa puntata. Perché? Perché il 5 giugno del 1978 si è riunito in sala di incisione a Tokyo, in Giappone, con il sassofonista Archie Shepp per dar vita a un album meraviglioso dal titolo Duet. Un album che vedeva 6 brani in scaletta, firma un po' di Dollar Brand, un po' di Archie Shepp e anche qualche standard, e noi abbiamo scelto di aprire con Barefoot Boy from the Queenstown to Mojezzi, un brano scritto da Archie Shepp, ed eccolo qua. Thank you. giovane che nei primissimi anni 60 fu costretto per via dell'apartheid a lasciare il suo amato Sudafrica per recarsi e trasferirsi a Zurigo in Svizzera, dove però incontrò il pianista Duke Ellington, che lo convinse ad andare con lui negli Stati Uniti e fare poi la sua fortuna. Ed è proprio con Duke Ellington che noi andiamo avanti, perché ci sono state due sessioni importanti di registrazione nel 1962. Noi apriamo con quella del 26 settembre negli studi di Rudy Van Gelder, dove Duke Ellington incontra il sassofonista John Coltrane in un album davvero a 5 stelle. Particolarità dell'album è anche la ritmica che accompagna questi due giganti. Perché? Perché si potrebbe facilmente pensare che Duke Ellington si fosse portato Aaron Bell al contrabbasso e alla batteria Sam Bouillard, ma il produttore Bob Dylan convinse i due a alternare a questa ritmica anche quella solita del John Coltrane Quartet, e quindi Jimmy Garrison al contrabbasso e anche Elvin Jones alla batteria. Noi ci ascoltiamo un brano a firma di Bill Strayhorn. Questa è My Little Brown Book. Duke Ellington e John Coltrane. 79 giorni prima, era il 17 settembre dello stesso anno, Duke Ellington era chiuso nei Soundmaker Studios di New York per dar vita ad un'altra storica sessione di registrazione, questa volta in trio, ed è l'incontro con Charles Mingus al contrabbasso e Max Roach alla batteria. I tre si erano rinchiusi per dar vita ad un album davvero importante uscito per la Blue Note Records dal titolo Money Jungle, un album che vedeva la maggior parte dei brani scritti appositamente per la sessione, ma anche qualche bella rivisitazione di qualche brano più vecchio di Duke Ellington, come quello che ci andiamo ad ascoltare. Questa è Warm Valley, una ballata deliziosa però indelebilmente associata a Johnny Hodges, ma qui rivisitata in trio appunto con Charles Mingus, Max Roach e ancora Duke Ellington. Andiamo indietro ancora di qualche anno, siamo arrivati al 1957, quando nei Capitol Studios di Hollywood si incontrarono il 16 settembre due giganti del sax tenore. Parliamo di Coleman Hawkins e Ben Webster, che daranno vita ad un album molto molto interessante uscito per la Verve. Due giganti che non si calpestano mai i piedi, ma che invece si mettono l'uno al servizio dell'altro, dando vita a dei brani davvero intensi. Noi abbiamo scelto uno standard a firma di Cole Porter, questo è You Be So Nice to Come Home To, Coleman Hawkins e Ben Webster. Mm-hmm. Adesso andiamo avanti con due valzer che vedono protagonista il pianista Bill Evans. Il primo è del 1961 e leader dell'album non è lui con il suo trio, bensì il sassofonista contraltista Kenneble Adderley, che con il trio di Bill Evans, che vede anche Pearsett al contrabbasso e Connie Kay alla batteria, ha dato vita ad un album davvero, davvero epocale. Stiamo parlando di Know What I Mean e noi ci ascoltiamo quella che è la traccia di apertura, Waltz for Debbie, che è appunto scritto dal pianista americano. Thank you. ancora protagonista Bill Evans con una registrazione avvenuta il 5-6 maggio del 1964 negli studi di Rudy Van Gelder. L'occasione era quella di incontrare un altro grande sassofonista, questa volta tenore, parliamo di Stan Getz, in un album che appunto porta il titolo Stan Getz e Bill Evans e che vede anche l'aggressivo batterista Elvin Jones, e al contrabbasso invece vede alternarsi Richard Davis e Ron Carter. Noi abbiamo scelto appunto un altro valzer, Grandfather Waltz, scritta da Lasse Farmol e Gene Linz. Thank you. Ascolta di Radio Onda Rossa, questa è Attica Blues con questa puntata dedicata ai grandi incontri nel jazz. Noi andiamo avanti ancora con Stan Getz, che nel 1957, era il 22 ottobre, incontra un altro grande sassofonista, questa volta baritono. Parliamo di Jerry Mulligan e con loro Louie Levy, Ray Brown e Stan Levy. Per un album dal titolo Stan Getz meets Jerry Mulligan, noi abbiamo scelto la traccia di chiusura ed è ancora a firma di Cole Porter. Questa è Anything Goes. Questa puntata dedicata ai grandi incontri con due live. Il primo è più recente, siamo nel 2007 all'Enjoy Jazz Festival a Mannheim in Germania. Protagonisti sono il pianista americano Brad Meldau e il contrabbassista Charlie Aden. Questo concerto arriva a circa un decennio dalla loro prima uscita insieme al sassofonista Lee Konitz e al batterista Paul Motion, protagonisti nel 1997 dell'album Alone Together, album che poi sarà replicato nel 2011 con un live al Beardland. Ma qui i due protagonisti sono insieme per un album più intimo uscito nel 2018 per la Impulse Records. Da questo splendido live noi abbiamo scelto What I Do, uno standard, a firma di Irving Berlin. così anche oggi siamo arrivati all'ultimo brano per noi. Noi vi salutiamo con questa Autumn Leaves dall'album Conference The Press volume 2 uscito per la Dreyfus. E qui il protagonista è il pianista Michel Petrucciani e l'organista Eddie Lewis, entrambi francesi, per questo connubio in realtà abbastanza insolito nel jazz tra pianoforte e organo. E allora ci riascoltiamo e ci li godiamo in questa lunghissima reinterpretazione di uno standard del jazz. A giovedì prossimo con una puntata dedicata al mitico produttore giamaicano Duke Reed. Io vi ricordo che sul sito della radio troverete tutti i podcast di questa come di tutte le altre trasmissioni. Basta andare sul sito www.ondarossa.info. Vi ricordo inoltre anche le nostre pagine social, Attica Blues, la trovate su Facebook, su Twitter, su Instagram e anche su Spotify, dove invece è presente una ricchissima playlist di musica nera. In tutti i casi basta cercare Attica Plus e ci troverete facilmente. E invece per la diretta l'appuntamento è sempre il giovedì, sempre alle 16, sempre su Radio Onda Rossa e ovviamente sempre Attica Blues.